mondo si colora e sto vivendo un'altra primavera. Immagini la morsa dei ricordi e di giorni tutti uguali come un falco senza